Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno. Il programma prevede di parlare della mappa della sentenza, di dubbi in tintoria, di casi isolati, nonché di lenticchie di montagna, senza perderci un intervento lampo di Walter.